giorno o di notte ti venisse chissà un pensiero per me. Se mai il rimpianto ti chiama, dagli la mano, seguilo, se ti porta da me. Se mai io non chiederei nulla, scorderei anche il male che tu hai fatto a me. Se mai, se mai. Dolce chimera può darmi un po' di te. Rubasse una lacrima risvegliandoti il cuore, pensa che un pazzo romantico nella sua solitudine sta sognando di te, sta piangendo con te.